Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo, ultima puntata del mese, quella odierna. Come tradizione vuole, la dedichiamo interamente a tutti quei giovani, studenti delle scuole superiori oppure universitari, che ogni anno mollano le ancore e decidono di andare a formarsi all'estero. Lo facciamo nello specifico approfondendo nel corso della prossima mezz'ora il programma Erasmus in una delle sue numerose declinazioni. Lo sapete che si può andare con Erasmus anche in Armenia? Erasmus fa da sfondo anche alla nostra cassetta degli attrezzi, Toolbox, come candidarsi, quali paesi e università scegliere, su quali borse contare. Una vera guida pratica nella nostra intervista all'associazione Erasmus Student Network. Infine le segnalazioni di Face for Job sulle ultime offerte di lavoro nel mondo insieme alla lettera del nostro ascoltatore Martino completeranno il quadro della puntata. Prendete allora libri e zaini, parte il volo no cost di Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espat. Generazione Mobile. Oggi vi segnaliamo nell'angolo delle nostre informazioni utili la nuova guida online dell'Agenzia delle Entrate dedicata ai lavoratori italiani all'estero, come evitare la doppia imposizione, come funziona il credito per le imposte pagate oltre confine, quando è necessario iscriversi all'anagrafe residenti estero. Questi alcuni dei temi trattati nella guida. La brochure è disponibile nella sezione L'Agenzia Informa su agenzieentrate.gov.it. Tra gli altri capitoli, le imposte all'estero, il concetto di residenza fiscale e le convenzioni contro le doppie imposizioni. Toolbox. La nostra cassetta degli attrezzi di oggi vi fornisce tutti gli strumenti utili per non sbagliare alcuna mossa nel vostro approccio all'Erasmus, il periodo di studio per eccellenza in un altro paese europeo. Esperienza ormai imprescindibile, se non praticamente obbligatoria per ciascun studente. A guidarci per mano è Nicolò Marchello, Communication Manager di Erasmus Student Network Italia, la principale organizzazione studentesca internazionale a supporto dell'Erasmus. Innanzitutto per la partenza per il proprio Erasmus serve tanta determinazione, tanta voglia di fare, la voglia di conoscere, la curiosità che ci spinge poi a viaggiare, a conoscere culture differenti. Bene, a chi mi rivolgo? L'emissione di una borsa di studio Erasmus Plus è subordinata alla partecipazione al bando dedicato al progetto che gli Atenei pubblicano durante l'anno accademico tramite l'ufficio relazioni internazionali. Sarà con questo ufficio infatti che poi ci andremo a relazionare per tutte le domande che avremo, tutte le perplessità e tutti i dubbi. Come scelgo il paese dove andare? Cioè chiaramente la facoltà è la mia, però poi il paese è anche giusto trovare magari un'università migliore. Sì, assolutamente. Ogni Ateneo ha dei propri contatti, quindi in tutta Italia sarà possibile incontrare diverse facoltà, diverse possibilità a seconda poi del proprio Ateneo di appartenenza. Dipende molto anche dalla facoltà che si studia. Io posso dire come studente di farmacia che una delle mete più ambite è la Spagna, così come la Polonia. Quindi il consiglio è chiaramente farsi consigliare da chi magari sa di più, anche in base agli accordi che la propria università ha. C'è molta burocrazia nella domanda Erasmus? Questa parte del burocratica è fondamentale, come un po' in tutti i processi che riguardano le borse di studio e l'università in generale. Quello che posso consigliare io è durante l'applicazione, durante la propria candidatura, è quello di completare la domanda, di inserire tutti i dati necessari per presentare un'ottima candidatura. Inoltre sarà necessario, in un certo senso, andare a presentare una lettera motivazionale, che sarà il punto forte della propria candidatura e che potrebbe farvi raggiungere la vetta delle graduatorie finali, senza dimenticarsi anche dell'importantissimo certificato della lingua del paese ospitante, che anche quello sarà uno step ulteriore che riuscirà a dare maggiori punti poi per la scalata delle graduatorie finali. Quali sono i tempi medi di attesa dopo la presentazione della domanda? Allora, dipende anche questo da università ad università. Ogni università ha le proprie deadline, i propri criteri di scelta. Di solito almeno un paio di mesi dal termine della presentazione delle domande. E in questo paio di mesi ogni studente ha la possibilità di iniziare a mettersi in gioco, iniziare a pensare quello che è il learning agreement, quindi il piano di studi sostanzialmente degli esami che sosterrà all'estero. Cosa aspettarsi invece a livello anche di sostegno economico o di altro tipo da parte dell'università o della borsa Erasmus? Per quanto riguarda questo punto di vista, ci tengo a precisare che la partenza in Erasmus non è semplicemente subordinata alla vincita di una borsa di studio. Io conosco tanti studenti che, proprio per questa grande voglia di partire, per questa grande curiosità, sono partiti all'estero anche senza il supporto dell'università, senza aver vinto una borsa di studio Erasmus. Però ecco, la possibilità di vincere questa borsa di studio dà sicuramente più spazio a quelli che sono i nostri sogni, i nostri obiettivi. In media quanto ammonta? Anche questo dipende da paese a paese. Per quanto riguarda la mia università, l'Università di Camerino, io ho vinto una borsa di studio di 480 euro mensili. Dipende anche un po' dal costo della vita, insomma. Esattamente, esattamente. Ricordo che c'era anche la Romania, il cui corrispettivo poi ammontava a circa un centinaio di euro in meno. Un'ultima cosa, Nicolò, ed è l'approdo. Si arriva in un paese diverso, magari dove non ci sei neanche mai stati prima, in un'università diversa, compagni di studio diversi, cosa fare e cosa non sbagliare? Quello che consiglio di fare innanzitutto è cercare una casa, non dall'Italia, in quanto è sempre possibile incappare in qualche, non dico qualche truffa, però non si è mai soddisfatti poi di quelle che sono le proprie aspettative. Quindi il mio consiglio è quello di cercare una casa dopo aver raggiunto la città di destinazione, ed è qui che entra in gioco Erasmus Student Network. Posso infatti orgogliosamente affermare che uno dei punti forti della nostra associazione a livello internazionale è proprio il supporto a quello che in gergo tecnico viene definito housing, ovvero la ricerca di un appartamento nelle città dove le associazioni ESM operano. Basterà infatti entrare in contatto con la ramificazione locale di Erasmus Student Network e chiedere maggiori informazioni su come e dove cercare una casa. E a tal proposito aggiungo anche che l'apporto di ESM non finisce qui, in quanto grazie al rilascio della nostra ESM Card sarà possibile andare a partecipare a tutte le attività che le nostre sezioni ESM offrono come supporto allo studente Erasmus. Tutte le info su esn.org. Il testimone. Proseguiamo con la nostra testimone della settimana, il viaggio all'interno del mondo Erasmus. Come abbiamo scoperto nel corso degli ultimi mesi e come avrete capito, la vecchia borsa Erasmus è rimasta una semplice base, un sostrato comune intorno al quale si stanno accumulando declinazioni sempre diverse. Una di queste porta gli studenti Erasmus fuori dall'Unione Europea. Martel Bay, 23 anni, la sua borsa Erasmus l'ha presa con destinazione Armenia. Buon pomeriggio, Marta. Buon pomeriggio a voi. Ci riassumi brevemente il tuo percorso di studi per cominciare? Studiato presso il liceo classico linguistico a Giovanni da Vigo Rapallo e ho studiato inglese, francese e tedesco. Successivamente mi sono iscritta alla facoltà di lingue, civiltà e scienze del linguaggio, curriculum letterario e culturale presso la Ca' Foscari di Venezia, e ho studiato russo e inglese. Dopo la laurea ho deciso di passare alla magistrale di storia delle arti e conservazione dei beni artistici, continuando comunque a studiare le lingue come privatista. E qui aggiungiamo anche una cosa importante: perché hai svolto dei tirocini in Italia e all'estero? Sono utili? Sì, dipende secondo me molto dall'ambiente in cui ci si trova. Per quanto mi riguarda, mi considero fortunata perché i miei superiori erano persone molto competenti, professionali e anche molto interessate al mio arricchimento. Allora, qualche mese fa hai preso la decisione di frequentare un particolare tipo di programma Erasmus, quello in International Credit Mobility. Ci spieghi brevemente di cosa si tratta e in cosa si differenzia rispetto all'Erasmus tradizionale? Questo Erasmus permette la mobilità di studenti e personale verso delle destinazioni appunto extra Unione Europea, che sono anche spesso escluse da altri bandi, sempre comunque con il supporto dei fondi europei. E a questo proposito la borsa concessa, diciamo, è particolarmente sostanziosa perché prevede un totale di 650 euro al mese e non segue la divisione dei paesi in fascia A, B, C. Tra poco lo approfondiamo. Tra quanti paesi potevi scegliere? Quali le destinazioni? Erano presenti sei paesi: l'Armenia, l'Argentina, l'Australia con la scelta tra due università differenti, Canada, Giappone e Stati Uniti. Perché poi alla fine hai scelto proprio l'Armenia? È una scelta che ha stupito molto. Direi intanto anche perché c'erano dei corsi corrispondenti ai miei in Italia e questo era fondamentale, ma poi mi affascinava, diciamo, per il suo essere fuori dalle principali rotte turistiche, quindi un paese sconosciuto, in questo senso molto più affascinante dei soliti Canada, Stati Uniti, Australia. Nella lettera che hai inviato a Generazione Mobile @radio24.it inviti i tuoi potenziali colleghi di Erasmus, trattandosi di un progetto, questo abbastanza particolare, a leggere molto bene il bando. Quali sono i documenti fondamentali da produrre all'atto della candidatura? Learning agreement con i corsi che si vogliono seguire, un documento di identità valido per il paese, il certificato di laurea triennale, il certificato di iscrizione a un corso di laurea specialistica, l'elenco dei voti presi sia in triennale che in magistrale, un'autocertificazione delle conoscenze linguistiche, il curriculum vitae e la lettera motivazionale. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la storia di Marta Elbai, 23enne studentessa che sta seguendo una particolare e nuovissima tipologia di programma Erasmus in Armenia. Da lei consigli e indicazioni pratiche su come sfruttare opportunità comunitarie non sempre conosciutissime. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Una volta inviata la domanda, quanto c'è da aspettare? Allora, io ho inviato la domanda a metà gennaio, la scadenza era i primi di febbraio, l'accettazione è avvenuta a marzo, metà marzo, quindi direi un mese e mezzo. Lo hai accennato, le condizioni sono abbastanza buone della borsa a livello economico? Sì, poi tutto cambia dai parametri del paese. Per l'Armenia posso dire che 650 euro sono estremamente buoni. Chiaro. Poi non posso parlare per Canada o Giappone, ecco. Allora, sei partita, sei arrivata e quando approdi in questo paese extra Unione Europea, qual è la prima cosa da fare in termini burocratici? Attenzione. Bisogna recarsi presso l'ufficio internazionale dell'università ospitante perché bisogna compilare questa conferma di arrivo che poi deve essere tempestivamente mandata alla propria università. E inoltre bisogna anche cominciare a verificare i corsi per poter poi cambiare eventualmente il learning agreement. Tu tra l'altro consigli caldamente di restare sempre in contatto con i due uffici di relazioni internazionali, quello dell'università di partenza e quello dell'università di arrivo. Però la domanda è un'altra, qual è stato il tuo personale impatto con l'Armenia? Quale impressione ti ha fatto a pelle? Ovviamente è un paese molto diverso, quindi bisogna abbandonare certe logiche europee, come non so, avere dei trasporti pubblici che funzionino con un orario preciso. E ovviamente all'inizio è un po' difficile, perché siamo molto legati alle nostre logiche, però poi ci si abitua, ecco. Cose indispensabili, cominciamo dalla casa. La sua individuazione è compresa nella borsa o hai fatto da sola? Ho fatto da sola. Hanno dato dei contatti, però ho trovato meglio tramite Facebook. E l'università? Nel tuo caso si può dire che sei seguita molto da vicino nelle lezioni, perché? Direi di sì, perché il professore fa una lezione individuale per me in lingua inglese, in quanto gli altri corsi presso l'università sono in lingua armena. E in generale, Marta, dovendo dare un giudizio complessivo alla tua esperienza, consiglieresti in primis questo programma Erasmus e in secondo luogo consiglieresti l'Armenia come destinazione? Senza ombra di dubbio, anzi io consiglierei questo Erasmus proprio anche in relazione all'Armenia, devo essere sincera, perché è un paese che può davvero colpire molto, sia per il paesaggio, sia per il popolo, che è veramente un popolo dal cuore grande. Secondo me può dare un'esperienza formativa sia in senso didattico, ma anche proprio in senso di arricchimento umano, quindi assolutamente lo consiglio. Ci raggiungerà in linea Clara Grano dell'agenzia Erasmus Plus Indire, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. L'Erasmus International Credit Mobility è un programma molto nuovo, con appena 2 anni di vita. A chi si rivolge in generale e chi può trarne maggior beneficio? Ma è un programma molto nuovo che eredita però in parte il vecchio programma Erasmus Mundus, l'azione 2 esattamente, quindi la mobilità di soggetti che possono, studenti universitari, che possono recarsi al di fuori dell'Europa, frequentando atenei e avendo il riconoscimento delle attività svolte durante il loro periodo di mobilità. Possono partecipare tutte quante le istituzioni italiane in possesso della ECHE, che è questo prerequisito, quindi si candidano quando esce il bando. Tra l'altro il nuovo bando uscirà nei prossimi giorni, si tratta della COLD dell'anno 2018. Possono candidarsi, ma con una candidatura che è quanti-qualitativa, cioè devono effettivamente gli atenei interessati, le accademie di belle arti, i conservatori, e illustrare in un progetto nella loro candidatura la volontà di muovere i soggetti verso altri continenti e la volontà anche di ricevere i soggetti da altri continenti. Questa è la grande novità di questo programma. Le nostre università sono attive su questo tipo di programma Erasmus? Certamente, sono attive. L'unico grande problema che abbiamo probabilmente in Italia e anche nel resto, per carità, dell'Europa, è il budget, nel senso che viene destinato a questa azione del programma un budget di gran lunga inferiore a quello della mobilità intraeuropea. Abbiamo 14 milioni all'incirca di euro da erogare ai migliori progetti che vengono presentati. E quanti studenti ne stanno usufruendo di International Credit Mobility? La maggior parte degli studenti vengono a frequentare i nostri istituti, e quest'anno saranno 49 gli istituti italiani partecipanti, 1263 gli studenti in entrata, 502 gli studenti in uscita. Dove vanno soprattutto i nostri studenti? Ma questa è una bellissima domanda, nel senso che i ragazzi tenderebbero ad andare verso paesi come Canada, Stati Uniti, Australia, ma il discorso è di tipo diverso, bisogna anche guardare il portafoglio, bisogna guardare quanti finanziamenti ci sono su quei determinati lotti geografici, ma diciamo che essendo noi un paese che si affaccia sul Mediterraneo abbiamo anche grande interesse verso i paesi dei Balcani occidentali, del Nord Africa o di una certa parte del Centro Asia e del Centro e Sud America. Ci sarà una novità importante per questo programma dal prossimo anno accademico, quale? In questi giorni uscirà la call del 2018 che prevede per l'International Credit Mobility anche l'apertura ad una mobilità, ad una categoria di mobilità che è quella del traineeship. Grazie a Clara Grano dell'agenzia Erasmus Plus Indire. C'è una domanda di rito per Marta Elbai: il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero? Beh, il primo consiglio sarebbe quello di documentarsi comunque un po' sul paese in cui si decide di effettuare la mobilità, diciamo anche per ridurre un po' lo stress prima della partenza, per non renderlo proprio un salto nel vuoto. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna questa settimana per il primo appuntamento del mese di ottobre Alessio Romeo, CEO e fondatore di Face for Job. Con lui andiamo alla scoperta delle offerte più calde del momento nel mondo. Per questo appuntamento di fine ottobre ci concentriamo su un'analisi atipica sul fronte lavorativo, e cioè quella che riguarda i top manager nel mondo. Perché ho detto atipica? Perché queste figure in passato, ma anche oggi, erano solitamente di competenza degli headhunters. Ecco, oggi su questo fronte sta accadendo una piccola rivoluzione, cioè che figure così importanti e prestigiose li troviamo anche in rete. E quindi abbiamo intercettato un bello spettro e portafoglio di opportunità in tutto il mondo. Ecco, il podio, quindi la prima posizione, è diciamo il cosiddetto direttore strategia e organizzazione, che sarebbe il direttore generale un po' più evoluto. Poi abbiamo la direzione marketing, direttore operations, e a seguire abbiamo le figure più ricercate, sono i responsabili esecutivi in ambito risorse umane, commerciale, ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda le nazioni dove maggiormente si cercano in rete queste figure, abbiamo in testa gli Stati Uniti, segue in Europa l'Inghilterra, poi Cina, India, Australia, Messico e Giappone. Vediamo allora quali sono queste aziende, le principali aziende che cercano a livello globale queste figure di livello top. Allora, iniziamo con Anaplan, una società californiana che fornisce servizi di pianificazione e gestione, per intenderci una diretta concorrente di IBM piuttosto che ora con lo SAP, e cerca quattro figure di direttore strategia e organizzazione a Singapore, in Germania, in Inghilterra e Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti cerca anche un direttore delle risorse umane. Poi abbiamo un gruppo, una catena di hotel 5 stelle molto importante in Asia e si affaccia anche in Europa, la Mandarin Oriental Hotel Group, che cerca un direttore marketing in Cina e due direttori operation sempre in Cina e uno in Svizzera. Poi abbiamo la Kensho, società israeliana di marketing online, che gestisce marchi importantissimi, e questi cercano un direttore risorse umane, un direttore strategia e organizzazione sempre negli Stati Uniti. Poi abbiamo il più grande istituto tedesco e il quarto al mondo che effettua ricerche di mercato, che è la GFK, e cerca il direttore marketing e anche un office manager in Inghilterra. Infine concludiamo con tre nomi un po' più noti. Abbiamo PayPal, cerca un direttore marketing in Cina. La Leonardo Finmeccanica S.P.A. italiana cerca un direttore commerciale da localizzare in Inghilterra. E poi abbiamo TripAdvisor, che cerca il direttore operations in Cina. Tutte le informazioni le potete trovare come al solito nel nostro sito www.faceforjob.com. Internet Point. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Come ogni ultimo sabato del mese, spazio alle vostre lettere. La missiva di Martino prende le mosse proprio dal tema della puntata, quello dell'Erasmus. Martino è un vero giramondo che ci carica con tanta positività. Sentiamo allora cosa ci ha scritto. Noi ne approfittiamo per ricordarvi di mandarci le vostre lettere a generazionemobile@radio24.it. Buongiorno. Mi chiamo Martino, ho 30 anni e sono di Brescia. Laureato in ingegneria gestionale, sono uno dei fortunati a cui l'Erasmus ha aperto gli occhi sul mondo. L'esperienza di un anno per rafforzare la lingua inglese e vivere al di fuori delle mura di casa si sono inaspettatamente rivelati un trampolino di lancio verso una carriera internazionale che mi ha portato a vivere nell'ordine in Svezia, Svizzera, Emirati Arabi, Francia e Singapore. Rientro nella categoria dei pochi fortunati che l'estero l'hanno scelto e non se lo sono visti imporre. In probabile controtendenza con il pensiero comune, non trovo affatto preoccupante l'esodo di giovani all'estero. Al contrario, credo che ogni paese con la volontà di crescere debba dapprima spingere i propri giovani a vedere e vivere il mondo da cittadini e non da turisti, e poi creare le condizioni affinché essi tornino e condividano le esperienze fatte. Convinto di questa idea e fresco di un MBA in una delle più importanti università al mondo, sono recentemente rientrato in Italia con l'intenzione di rimanerci. Ho un nuovo lavoro. Dopo diversi anni da dirigente aziendale, sono ora approdato nel campo della consulenza manageriale, una nuova casa, anche se ancora in affitto, e la solita valigia compatta, ma piena di voglia di fare. La mia vita rimane un puzzle. Ho lasciato pezzi di felicità in tutti i paesi in cui ho vissuto. La mia fidanzata vive a Singapore e mio fratello a Dubai. Mantenere il puzzle intatto richiede sforzo e non è sempre facile, ma non rinuncerei mai a nessuno dei singoli pezzettini che tuttora rendono la mia vita così ricca e piena di colore. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere? Testimonianze personali da dare? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia? Soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra generazione mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.